Capitolo 9. Augusta, 25 agosto 1527. Tre colpi e una voce roca dietro la porta. Sono io, sono Dank, apri! Salto giù dalla branda e tolgo il paletto. È rosso di sudore e ha il fiato grosso per la corsa. Gli sbirri hanno preso Daxer, un'irruzione in casa sua mentre dormivano tutti. Merda! Comincio a vestirmi in fretta. Il quartiere è pieno di guardie. Entrano nelle case, sanno dove abitiamo. E i tuoi? Da amici, è un posto sicuro. Devi venirci anche tu, qui è troppo pericoloso. Stanno cercando gente venuta da fuori città. Raccolgo il bagaglio e assicuro la daga sotto il mantello. Quella non servirà a niente. O forse sì. Andiamo, fai strada. Scendiamo le scale, usciamo nel vicolo. Mi guida nel primo chiarore dell'alba per le strade strette dove si cominciano ad aprire le botteghe. Lo seguo. Senza riuscire a orientarmi. Ci infiliamo in un quartiere miserabile. Inciampo in un cane pulcioso che allontano con un calcio, sempre dietro a Dank, col cuore in gola. Si ferma davanti a una porta piccolissima. Due colpi e una parola mormorata. Ci aprono. Entriamo. Dentro è buio. Non vedo niente. Mi spinge verso una botola. Attento alle scale! Scendiamo. Ci troviamo in una cantina. Un lume rischiara facce sconvolte. Riconosco i volti di alcuni fratelli visti a casa di Langmantel. Ci sono anche la moglie e i figli di Dank. Qui siete al sicuro. Bisogna avvertire gli altri. Tornerò prima possibile. Abbraccia la moglie. Un fagotto mugolante in braccio. Una carezza alla bambina. Vengo con te. No. Mi hai fatto una promessa, ricordi? Mi trascina verso la scala. Se non dovessi tornare, portali via di qui. Non se la prenderanno con loro, ma non voglio che corrano rischi. Promettimi che ti prenderai cura di loro. È difficile abbandonarlo alla sua sorte così. È una cosa che non avrei voluto fare mai più. D'accordo, ma fai attenzione. Mi stringe forte la mano, con un mezzo sorriso. Slaccio la daga dalla cinta. Prendi questa. No, meglio non dargli una scusa per ammazzarmi come un cane. Già si arrampica su per la scala. Mi volto. Sua moglie è lì. Non una lacrima, il figlio al collo. Ripenso a Ottilie, la stessa forza nello sguardo. Così le ricordavo, le donne dei contadini. Tuo marito è un grande uomo, se la caverà. Tornano in tre. Uno di loro è Dank. Sapevo che la vecchia volpe non si sarebbe fatta mettere nel sacco. È riuscito a recuperare altri due fratelli. Sono state ore interminabili, chiusi qui sotto, con la luce debole filtrata da una feritoia. Lei lo abbraccia, soffocando un pianto di sollievo. Dank ha nello sguardo la determinazione di chi sa di non poter perdere un attimo. Moglie, ascoltami, non ce l'hanno con voi. Tu e i bambini sarete al sicuro in questa casa. E appena vi si saranno calmate le acque, potrete uscire. Sarebbe certo più pericoloso farvi tentare la fuga adesso, che ogni porta della città è presidiata dalle guardie. La moglie di Daxer ti terrà con lei. Troverò io il modo di scriverti. Dove andrai? A Basilea. È l'unico posto rimasto dove non si rischia la testa. Mi raggiungerai con i bambini, quando il peggio sarà passato. Questione di un paio di mesi. Si rivolge a me. Amico mio, non abbandonarmi adesso. Mantieni fede alla parola che hai dato. Non conosco il tuo nome né il tuo volto. Annuisco, quasi senza rendermene conto. Grazie. Te ne sarò riconoscente per la vita. Reagisco, stordito dalla sua fretta. Come hai intenzione di uscire dalla città? Indica uno dei due compagni. L'orto della casa di Carla è a ridosso delle mura, con una scala, e approfittando del buio dovremo farcela. Dovremo correre tutta la notte attraverso i campi. Troverò il modo di farvi sapere se sono arrivato sano e salvo a Basilea. Bacia la figlia e il piccolo Nathan. Abbraccia la moglie, alla quale bisbiglia qualcosa. Una forza incredibile le impedisce ancora di piangere. Lo accompagno verso la scala. Un ultimo saluto. Che Dio ti protegga, che illumini la tua strada in questa notte oscura. La sua ombra si arrampica veloce, incitata dai confratelli.